e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e buon lunedì di Pasquetta, auguri! Noi per l'occasione vi regaliamo una puntata speciale di Cuore Denari. Nella prima parte vi propongo un tema particolarmente vasto, parliamo della pelle, ognuno ha la pelle che madre natura gli ha dato in sorte, il patrimonio genetico dice la sua, ma se madre natura è stata matrigna non è tutto perduto, ciascuno di noi può fare naturalmente la sua parte e la puntata di oggi è proprio un'occasione per imparare a prenderci cura della nostra pelle dedicandogli le attenzioni e le cure di cui ha bisogno. Nella seconda parte della trasmissione, invece, in questi giorni si mangerà un po' di più, riascolteremo alcuni estratti della nostra puntata dedicata invece alla lotta allo spreco alimentare, un aspetto a cui fare attenzione sempre, ma in particolare in un giorno come questo in cui tanti si dedicheranno a picnic e magari pranzi in compagnia. Ma ora partiamo. Dalla faccia seria, sempre arrabbiata, vecchiaia. Le occhiaie. Dalle rughe attorno alla bocca. Che il sorriso tirato, che non è un sorriso spontaneo. Spesso lo noto nel sorriso io, che è una espressione stressata. Le cellule si stressano perché sono sensibili a quelle della nostra pelle. Lady Gaga, mi piace. Vedi, adesso abbiamo detto che è importante alzarsi un po', no? Non stare sempre seduti. E infatti Deborah ballava. Allora, come avete sentito dalla nostra Vox Populi, tutto sulla nostra pelle lascia una traccia. Stili di vita, comportamenti, ma anche le emozioni lasciano un segno. Lo sappiamo anche bene per esperienza diretta e lo affermiamo, a volte anche senza rendercene conto, nei modi di dire che sono entrati nel linguaggio comune. Non stiamo più nella pelle dalla gioia. Il nostro amico del cuore è un amico per la pelle, che a volte ci fa venire ai nervi a fior di pelle. Mi fermo, però naturalmente potete continuare voi, ma più che scervellarvi sui modi di dire sulla pelle, mi raccomando, com'è cambiata dall'anno scorso? Che cosa è successo da quest'estate? La vedete meno tonica, più segnata, secca? È particolarmente irritabile? Si arrossa per un non nulla o sbianca? Insomma, la puntata di oggi è dedicata a chi si vede viso stanco e segnato, colorito spento, ma anche occhi tristi, sorriso tirato, contorni cadenti, rughe, occhiaie e borse. Aggiungo anche macchie e brufolini per commentare il quadro e vi aspetto. Tanto saluto i nostri due ospiti e nel farlo chiedo a ciascuno di loro di delineare bene il loro campo d'azione per farci capire come possono aiutarci e soprattutto di che cosa hanno bisogno per farlo. Saluto subito allora la dottoressa Adele Sparavigna, dermatologa, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere qui a Cuore Denari. Grazie, una new entry. Allora, ci faccia capire bene che cosa possiamo chiederle e soprattutto che cosa ha bisogno da noi. Allora, se è vero che le emozioni lasciano il segno sulla pelle, è anche vero che la pelle intacca la nostra emotività. Certo. Quindi prima di tutto bisogna cercare di essere un po' lucidi e un po' distaccati, perché tante volte ci sono delle cose che a noi sembrano enormi, dei difetti enormi e che magari gli altri non notano neanche, mentre invece ci sono delle situazioni in cui ci sono delle cose importanti che noi non notiamo nemmeno. Quindi imparare con metodo ad essere distaccati. Facciamo qualche esempio, dottoressa. Allora, per esempio, se io parlo di rossore del viso, sì, ecco, ho bisogno di capire se questo rossore è un rossore abituale, se è un rossore permanente, se è invece legato a determinate esposizioni ambientali, se nella famiglia ci sono episodi precedenti e così via. Quindi bisogna non solo guardare il segno, ma essere attenti anche all'osservazione della storia della persona e cercare un attimino anche di aiutarci con le persone che sono attorno a noi per misurare meglio l'entità del problema, perché a volte siamo portati a fare tragedie. Il brufolino, che ci sembra, no? Una cosa, la ruga. La pieghetta. Ecco, e poi siamo soliti, ciascuno è medico di se stesso, per cui siamo soliti, no, attribuire anche trovare la causa. E quindi, però, ad esempio, non solo i brufolini non sono solamente un regalo dell'età, degli adolescenti, possono comparire anche in età adulta. E allora è tutta un'altra storia, è così. così le rughe, ci sono le rughe d'espressione, ma anche le rughe che raccontano che non abbiamo curato adeguatamente la nostra pelle, non stiamo forse utilizzando i cosmetici giusti. E infatti saluto il nostro professor Umberto Borellini, ecco, che è specializzato in scienze e tecnologie cosmetiche, eccolo qua. Che lei, buongiorno a tutti, è già, grazie, una vecchia conoscenza di Essere Benessere, di Cuore Denari. Lei ci aggiornerà sui risultati raggiunti dalla tecnologia cosmetica più innovativa e ci indirizzerà a individuare le sostanze capaci di ristrutturare, rigenerare e riparare la nostra pelle. Professor Borellini, ce la faremo? Assolutamente sì. Di che cosa ha bisogno per fare questo miracolo? Di domande che magari mi faciliterebbe che che l'ascoltatore avesse dimestichezza con le etichette dei prodotti che ha, in modo da avere già qualche idea di quello che sta usando, così io lo posso indirizzare. Io so già. Tu sei, perché tu già mi hai istruita a dovere. Ecco, dobbiamo anche dire che i nomi sono quasi impronunciabili. Sono qui apposta per decodificare questi paroloni. Innanzitutto il titolo del libro è abbastanza accattivante. Sì, il libro si chiama La Divina Cosmesi. E la dice tutta. Tutta, però. Possiamo diventare belle. Ed è un libro che inizia, a dir la verità, a parlare di ingredienti cosmetici da pagina 80. Prima si parla della cosmesi, proprio in base a quello che abbiamo anticipato, quella che io chiamo la cosmesi dell'anima, cioè la produzione di endorfine, lo stare bene, l'attenzione a tante cose, porta a dei benefici cutanei. Insomma, essere belli dentro si rischia di diventare anche un po' belli fuori. Direi proprio di sì. Allora, intanto, dottoressa Sparavigna, ci vuole metodo anche per osservarci davanti allo specchio, oltre che a una certa distanza, no? Insomma, certamente, da non ingigantire le cose. Allora, ci impresti il suo occhio clinico per un'osservazione attenta della nostra pelle? Io partirei proprio dal colore. Che informazione ci dà? Allora, per quanto riguarda il colore, prima di tutto dobbiamo, se siamo davanti allo specchio, vedere se la manifestazione è generalizzata oppure è localizzata in determinati punti. Sì. E se è localizzata in determinati punti, vedere se è simmetrica, quindi se è bilaterale. Certo. Perché queste informazioni sono molto importanti per capire quanto c'è di costituzionale, quanto c'è di patologico o quanto c'è di ambientale. Ad esempio, un rossore che compare soltanto in una determinata zona del viso, soltanto da un lato, molto probabilmente è un rossore di origine esogena, quindi magari da contatto oppure magari da trauma meccanico. Invece, se noi tendiamo a arrossarci in determinati momenti della giornata, questo sarà un rossore generalizzato. Certo. E poi il rossore può essere dovuto anche a delle condizioni di irritazione da sostanze esterne, quando per esempio si utilizza il cosmetico sbagliato, oppure può essere un'alterazione del microcircolo. Quindi è molto importante osservare tutte quelle che sono le cause scatenanti di questo rossore e direi anche la sintomatologia soggettiva che si associa, quindi se abbiamo una sensazione di pelle che tira, se abbiamo una sensazione di prurito, se abbiamo una sensazione di calore, sono tutti elementi che ci servono, aiutano a nella fare nostra il quadro. Indagine. Lei ha parlato di rossore, dottoressa Sparavigna, vorremmo parlare anche nel corso della trasmissione di quei coloriti spenti che tendono un po' al grigiastro, un colorito che non è uniforme, ad esempio è più scuro nella zona perioculare, no? È una cosa un po' che dà un senso di vecchietudine, no? Professor Borellini, sicuramente i cosmetici possono aiutarci. Io penso che, da quanto però ho letto anche nel suo libro, ad esempio per cancellare il grigiore sia necessario partire da una buona ossigenazione della pelle che arriva ancora prima da una corretta detersione. Sì, è chiaro che è importante utilizzare i prodotti corretti per la detersione. E spesso questo non si fa perché si ignora, ma questo è normale. E ci sono tanti aspetti, il pH, la tipologia del detergente. Però prima della detersione potrebbe essere utile per le pelli spente utilizzare queste forme cosmetiche chiamate scrub. Sono dei prodotti che all'interno contengono gusci di noccioline, sali, tutti smussati, quindi non aggressivi. E questo gesto praticamente favorisce il distacco delle cellule morte, donando omogeneità all'incarnato, E poi c'è anche un aspetto psicologico, un po' come quelli che descrivo nella prima parte del libro. Io lo chiamo il gesto che cura. E già il fatto di applicarsi una crema con dentro un buon fattore idratante, il gesto dello scrub, questo toccarsi, questo massaggiarsi, stimola comunque il microcircolo, quindi dà una riattivazione. Poi chiaramente le sostanze presenti dentro danno quel qualcosa in più, per cui c'è sempre un po' questo stretto legame tra pelle e psiche, che poi, diciamo, nel libro descrivo anche il fatto di questa genesi a livello embrionale, che noi nasciamo a livello embrionale in un sistema dove la parte, si chiama foglietto, che genera il tessuto cutaneo è il medesimo di quello che genera il cervello, per cui questa connessione pensa è... tu. Anna Maria, buongiorno a tutti noi, vada. Buongiorno, grazie di tutto, ancora prima di incominciare a tutti. Dunque, io frequento la piscina da 7-8 anni. Brava. E non ho mai avuto problemi, però da 3 anni circa la pelle del viso mi si è rossa, sento che scotta e mi sembra pungere, invece in estate. Dopo si è anche calmata da sola, un po' stavo attenta, usavo le creme, non le usavo quasi, diciamo. Adesso però nelle emozioni forti o di si accende rabbia, la sua pelle si infiamma. Okay. La sento in modo violenta e mi sembra che i muscoletti del viso si contraggano. Una trasformazione, non in verde ma in rosa. Allora, vedo che i nostri esperti si sono accesi e quindi, dottoressa Sparavigna, questo è per lei. Allora, certamente l'abitudine di andare in piscina ha influito su questa pelle, perché il contatto continuativo con il cloro è molto aggressivo. E questo lo vediamo molto spesso, anche nei bambini. Qui ci può aiutare il ci nostro sono quindi cosmetologo. Delle pelle sensibili. Bisogna preparare la pelle al contatto perché con l'acqua della piscina. Perché alcuni sono un pochino più sensibili. Allora, professor Borellini, esatto. Allora, crema anche per andare in piscina. Fare un bagno in piscina è come fare un bagno in una vasca piena di conservanti, perché è ovvio, perché mantenere pura l'acqua si mettono dentro rilascianti di cloro. Quindi raccontata è ovvio. Così è poco poetica, ma vabbè. Ma è la verità. Quindi per evitare il contatto, per ridurre il contatto, sicuramente è utile applicare magari un latte corpo idratante, cioè fare in modo di utilizzare sul viso e sul corpo un prodotto filmogeno, quindi in grado di creare una pellicola protettiva, quindi acido ialuronico, olio di mandorle dolci, questi sono gli ingredienti che si possono trovare in una buona crema. In questo modo la pelle ha una barriera idrofobica che è in grado assolutamente di proteggere per quelle 2 ore in cui si sta in piscina. Ma se lei mi ha parlato di olio, ma se io uso l'olio olio inteso all'interno della crema. Ok, preciso. Non olio da ungersi all'interno. Come un pesciolone. Esatto. Allora, Nives, vada con la sua domanda. Allora, io volevo chiedere, io ho 55 anni e non ho una ruga. Diciamo che ho sempre curato la mia pelle bene, eccetera, creme, bla bla bla. Volevo chiedere, per quanto riguarda il fattore, diciamo, di prevenire le rughe. Ma ormai non le vengono più, scusi Nives, a 55 anni non c'ha una ruga, io vorrei mettere giù, cioè... No, dottoressa Sparavigna. Una bravissima estetista, che è la madrina di mio figlio. E allora, senta Nives, vada alla sua domanda perché i nostri centralini fumano. Vada, allora, lei cosa vuole sapere? Acido ialuronico. Serve o no? Usarlo per bocca aiuta la pelle, sì o no? Dottoressa Sparavigna, questo acido ialuronico serve davvero così tanto? Spiana le rughe, ci fa diventare belle, ci regala gioventù e giovinezza? Utilizzato localmente e iniettato nella pelle, sì. Come integratore diciamo che ha un'efficacia abbastanza relativa. Lei comunque adesso, se vuole un consiglio proprio professionale, ha già superato quella fase della vita in cui si avvicendano e si accelerano le rughe, che va dai 40 ai 50 anni. Oltre quest'età il problema non è più tanto la ruga quanto l'anarchia dei volumi del volto.

Potremmo continuare a lungo con queste immagini che sono davvero sconfortanti, ma la sensibilità attorno al problema dello spreco di cibo è sempre più alta, tanto che alcuni paesi si stanno dotando di norme per combattere questo fenomeno che è davvero inaccettabile. Lo ha fatto di recente la Francia e, come vi dicevo, ora anche l'Italia sta discutendo questa norma contro gli sprechi alimentari, che ha tante differenze rispetto alla norma francese, ma lo spirito è quello che conta. Quello che si vorrebbe fare nel nostro paese è favorire l'uso consapevole delle risorse, il recupero di prodotti ancora utilizzabili da parte delle associazioni di volontariato, un tema molto importante, cercando di alleggerire la parte burocratica delle procedure per la raccolta e poi per la donazione, non solo di cibo ma anche di farmaci. Musica per le orecchie del Banco Alimentare. Saluto e ringrazio per essere con noi questa mattina Marco Lucchini, il direttore generale. Buongiorno. Buongiorno. Che ci spiegherà bene che cambiamenti porterà questa norma e soprattutto anche che impatto avrà fra i consumatori cittadini. Lucchini, voi siete fra le realtà italiane la più conosciuta, fra quelle appunto che si impegnano nel recupero e la redistribuzione degli alimenti. Ogni giorno recuperate eccedenze alimentari da molteplici donatori, riducendo lo spreco, dando agli alimenti ancora buoni nuovo valore. Questo è quello che leggiamo dal vostro sito. Ci fa intanto degli esempi pratici di chi sono questi donatori, oltre alla colletta alimentare che conosciamo durante il resto dell'anno, appunto, quale altro circuito riuscite a mettere in moto? Sì, facciamo l'esempio di una giornata tipo, quindi io so che questa mattina i nostri volontari con un camion sono andati presso l'ortomercato e a fine delle trattative ciò che è avanzato molti operatori dell'ortomercato l'hanno messo da parte e verrà donato al Banco Alimentare, quindi vuol dire orto, frutta che posso di essere portata alla distruzione invece viene portata poi presso il nostro magazzino e distribuita alle strutture caritative. Allo stesso orario più o meno altri volontari con dei furgoncini sono andati presso le mense della ristorazione collettiva a recuperare invece del cibo cotto che era stato messo ieri nell'abbattitore di temperatura, portato tra 0 e 4 gradi e quindi è stato conservato in modo corretto. Oggi lo vanno a ritirare, dopo un breve esame per vedere se la temperatura è ancora idonea, verrà portato direttamente a delle comunità, a delle mense che utilizzeranno questo cibo cotto. Nello stesso momento in magazzino starà arrivando un camion da qualche società della grande distribuzione o aziende di produzione che magari per un'attività promozionale finita piuttosto che per delle rotture che hanno macchiato le confezioni, ma il prodotto è sempre perfettamente commestibile, ci stanno consegnando altro prodotto che poi viene sempre distribuito in strutture caritative. Dottor Lucchini, la legge della quale stiamo parlando, la ringrazio per gli esempi molto concreti che ci ha rappresentato, con la legge che stiamo tentando di introdurre nel nostro paese si tenterà di fare in modo che altri soggetti possano operare secondo la vostra modalità ormai istituzionalizzata. Quali sono i capisaldi della norma che si sta provando appunto ad introdurre nel nostro paese? Ma guarda, i capisaldi sono innanzitutto il primo che riconosce una gerarchia nel recupero del cibo proprio per lottare contro lo spreco. La gerarchia è che innanzitutto il cibo è per l'uomo, quindi facciamo tutto il possibile perché questo cibo venga recuperato per le persone che non hanno la possibilità di acquistarlo, primo esempio. Poi dopo, se questo non è possibile, per gli animali, per l'energia, il compostaggio. Insomma, prima della spazzatura definitiva, ecco, ci sono tante vie da percorrere. Quindi questa è la prima priorità. La seconda è il fatto che nel diritto le leggi si fanno. Io vorrei ribadire anche che l'Italia è dal 97 che ha iniziato un percorso normativo. Adesso stiamo arrivando a rendere omogeneo il tutto, perché quello che è stato fatto nel 97, nel 99 a livello fiscale, nel 2003 con la legge del buon samaritano sulla responsabilità civile, la 147 del 2013, erano tutti tasselli che oggi nella nuova norma vengono, come dire, incastrati in un testo unico, appunto perché è un testo unico, certo, in modo che tutti più facilmente possano utilizzarlo senza incoerenze, perché a volte ci sono anche delle incoerenze tra le norme, che bloccano poi la possibilità. Esatto, di farlo. E questa, quindi, tra l'altro, è proprio una delle principali differenze con la norma francese approvata da poche settimane, perché l'iniziativa italiana invece punterebbe, se non ho capito male, dottor Lucchini, sugli incentivi e sulla semplificazione burocratica, permettendo di superare le difficoltà che molti donatori ancora incontrano, no? Per esempio, parlavo prima di esercenti nel settore agroalimentare o ristoratori. Quali sono appunto questi ostacoli che un potenziale donatore di alimenti incontra? So che non è assolutamente facile, ci sono molti volontari, per esempio, molte persone animate da buona volontà che tante volte ci interpellano e ci dicono: io mi farei promotore di una raccolta, per esempio serale, presso i supermercati della mia zona, per andare poi a donare ad un centro presso il quale sono volontario, ma non posso farlo. Ecco, non posso farlo, bisognerebbe partire dal concetto, dal dirgli: non è vero che non puoi farlo, magari hai paura di farlo. Allora bisogna aiutarlo a avere meno paura. No, ma non è vero che il supermercato può dare, per esempio, gli alimenti freschi che sono scaduti in quella giornata per poterli portare in un centro dove si distribuiscono dei pasti. Questo non è automatico, dottor Lucchini. Ecco. Se è un prodotto scaduto, ma i prodotti scaduti per legge sono i prodotti che possono arrecare un danno alla salute della persona, le garantisco che sono pochissimi. Quindi mi faccio capire, se io stasera volessi andare... Andiamo io e Deborah stasera? No, ma dottor Lucchi, che io sapevo che, per esempio, se io stasera andassi all'Esselunga, cito il primo supermercato che mi è venuto in mente, dietro casa, e chiedo: avete questi alimenti che domani mattina probabilmente non venderete, non metterete sul banco, posso ritirarli io privata, Rosciani, per andarli a portare alla Caritas dietro casa mia per far mangiare due poverine che vengono e che hanno bisogno? Questo non è facile, non è autorizzato, giusto, il supermercato. Mi sembra giusto che non gliele diano. Cioè, ci vuole anche una responsabilità. Io prendo in mano, allora ci vuole un soggetto giuridico, un'associazione, una fondazione che risponde dell'atto che fa e documenta anche il fatto che quella roba la prende alla porta. Certo. Allora un conto è il fatto che c'è un'attività privata e un conto che c'è poi una responsabilità pubblica. Allora i livelli di responsabilità sono diversi. C'è un livello a livello fiscale, che non ci sia una truffa fiscale. C'è un livello a livello igienico-sanitario, che non ci siano dei rischi per la salute delle persone. Cioè, allora voglio dire che si fa molto spesso, velocemente, si cerca di ridurre le cose ai minimi termini, però qui abbiamo a che fare con un oggetto che è il cibo, che è un oggetto vivo, quindi può causare o meno danni alla persona, oltre che nutrirlo. Bisogna essere molto vigili, bisogna avere delle competenze. E infatti, diciamo, non che la norma abbiamo anche realizzato, abbiamo presentato settimana l'altra un manuale per le corrette prassi igienico-sanitarie per le organizzazioni caritative, proprio per insegnare a tutti quali sono i criteri con cui io posso ritirare un prodotto che ha superato il TMC, il termine minimo di conservazione, io lo posso ancora utilizzare perché non porta problemi alla salute, mentre invece un prodotto scaduto può portare problemi alla salute della persona, questo non lo potrò utilizzare. Però ci vuole un circuito molto ben organizzato e, come dire, una filiera controllata anche lì. E adesso ci lasciamo per un'altra piccola pausa, poi torniamo con voi per trascorrere insieme un pezzetto del lunedì di Pasqua. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta: state ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Problema. La signora Marisa, pescivendola di Torino, ore 17, ha 4 rate splendide, freschissime, e non riesce a vendere. La signora Marisa usa Last Minute sotto casa per informare tutti quelli che abitano vicino alla sua pescheria che ci sono 4 bellissime orate fresche a metà prezzo. Il messaggio arriva a tutti, anche a Roberta. E questa è Roberta, appena uscita dal lavoro e sta andando a prendere... Beh, noi vogliamo proprio bene al nostro amico Francesco Ardito, eh? Senti qua, abbiamo fatto anche risentire lo spot con cui viene promossa l'attività del suo last minute sotto casa, quindi lo salutiamo. Francesco, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, un saluto a Deborah, Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Ricordo ai nostri ascoltatori, stiamo parlando di lotta allo spreco alimentare perché si sta discutendo in Parlamento di questa norma. Testo peraltro anche abbastanza complicato perché implica delle norme sulla sicurezza alimentare anche di tipo fiscale, vuole evitare anche evasione e forme di mercato nero e si focalizza anche, questo è un tema molto importante, sulla responsabilizzazione del singolo cittadino. Noi stiamo cercando di interpretare bene questo testo per capire che cosa cambierà con Marco Lucchini, direttore generale del Banco Alimentare. Intanto Francesco Ardito, 30 secondi per rifare il biglietto da visita di Last Minute sotto casa. Perfetto, 30 secondi. Last Minute sotto casa è un progetto che appunto combatte lo spreco alimentare nei piccoli negozi di quartiere e nei mini market di prossimità. In che modo? In maniera molto semplice, proprio perché anche tutte queste categorie di negozianti si trovano spesso con piccole quantità di prodotto alimentare che rischiano di buttar via e sicuramente il Banco Alimentare non interviene per tre polli o due mozzarelle o quattro uova eccetera eccetera, quantità troppo piccole. Last Minute sotto casa interviene in che modo? Il negoziante che si registra può inviare un messaggio molto molto semplice, come fosse mandare un sms, scrivendo ad esempio: ho ancora quattro mozzarelle che scadono domani, venitele a prendere, che sono al 50% a metà prezzo. Il messaggio arriva a chi? A tutti i cittadini che si sono appunto registrati sulla Last Minute sotto casa e che abitano a due passi dal negozio. Dico sempre che è un progetto davvero win-win-win, perché il negoziante vince in quanto riesce ad incassare qualcosa che forse non avrebbe incassato, il cliente vince perché compra un prodotto fresco, perché ribadisco, se la mozzarella scade domani e la mangio stasera è assolutamente fresco, a metà prezzo, e vince il pianeta. Questa nuova legge vi aiuterà di più? Ma questa nuova legge qua, anche qua è stato un piacere, proprio ieri abbiamo avuto modo di parlare con l'onorevole Gadda che ci ha raccontato un po' i dettagli. Se vogliamo, come avete giustamente sottolineato voi, mira a facilitare tutta una serie di attività, deburocratizzare situazioni, per cui nello specifico non so quanto sarà direttamente legata alla nostra attività, però sicuramente sarà un passaggio molto molto importante, perché tra i vari temi ha la sensibilizzazione, questo è un tema su cui anche noi facciamo molta comunicazione. Nel senso, cominciamo fin da casa a non sprecare il cibo. Noi facciamo la nostra piccola parte col nostro progetto Last Minute sotto casa, che ripeto, sta iniziando a correre e correrà sicuramente in tutta Italia. Francesco, grazie. Intanto rimani con noi. Ho cercato particolarmente operatori che lavorano nella distribuzione organizzata o nella ristorazione e ha raccolto il nostro invito Ciro da Grosseto, che saluto. Ciro, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, io volevo parlare soprattutto di quelli che sono gli assortimenti all'interno del supermercato, che sono soprattutto nei supermercati e ipermercati, sono veramente sterminati. È evidente che poi strutturalmente, soprattutto per quello che riguarda latticini e semifreschi, noi buttiamo delle carrellate di roba enormi. Io ho una collega, oltretutto, che lavora nei latticini e che veramente ogni volta che passo e sta scaricando la roba mi guarda quasi come se fosse un cane bastonato, perché magari ha la sensazione, oltre che a livello professionale, anche proprio a livello personale, di magari poter avere la possibilità di aiutare delle persone. Quindi il tema è anche un po' tutto l'assortimento e anche come operatori voi pure ad un certo punto una riflessione su questo argomento lo fate. Grazie, grazie mille a Ciro. Lucchini voleva intervenire sulla considerazione dell'ascoltatore, sì. Assolutamente. Banco Alimentare. Capisco la frustrazione, capisco molto, soprattutto l'aspetto personale che lui dice, perché questo tocca la persona, non solo la funzione che ha. Io volevo dire a Ciro di dire alla sua collega che Banco Alimentare oramai già fa questo tipo di intervento in più di 900 tra supermercati e ipermercati, quindi volentieri, se ci contatta, faremo tutto il possibile, perché è possibile recuperare. Ecco, bisogna togliere questa parola che non posso, non si può. Si può, bisogna farlo bene, e abbiamo gli strumenti in Italia, ancor prima dalla Francia, questo lo continuerò a ripetere, per poter recuperare il cibo. Dobbiamo ammettere che magari non li conosciamo, dobbiamo approfondirli, dobbiamo fare formazione, ma ci sono tutti gli strumenti, ci sono i soggetti giuridici, c'è un bisogno, proprio ieri si parla di 4 milioni e mezzo ancora di persone che hanno fame, e quindi è veramente assurdo che, essendoci la possibilità di recuperare questo cibo, non si faccia. Dottor Lucchini, l'incentivo fiscale di cui il donatore potrà beneficiare, quale sarà? L'incentivo fiscale agisce sia sulle imposte dei redditi, e quindi l'azienda che donerà bene alimentare non più commercializzabile ma ancora perfettamente commestibile potrà scaricare dal valore del magazzino questi beni. La stessa cosa per l'IVA, cioè quindi non, la non applicazione dell'IVA per i beni che vengono donati a noi. Vorrei, è vero che ci sarà anche uno sconto sulla tassa sui rifiuti? No, allora volevo solo ricordare che queste due norme che vengono, come ho detto prima, messe in un testo unico, una del 97 e una del 99. Quindi c'erano, cioè, già. Non è che non c'erano, è che finalmente con un testo unico tutto sarà, è un atto di razionalizzato, esatto, perfetto. Allora, e volevo invece sulla tassa dei rifiuti c'è un invito, perché questa è una è di competenza delle amministrazioni comunali, non può lo Stato intervenire Impor. Su questo, di favorire, cioè di premiare chi quei donatori che dimostreranno che non viene buttata via roba. Qui però dovranno essere poi recepiti dalle amministrazioni comunali e trovare le formule. Sì, diciamo che ci mancava. Le amministrazioni comunali, la tassa sui rifiuti la si paga sui metri quadri. Esatto, no, ci mancherebbe via, anche quindi. Adesso la nuova versione della Tari, della quale onestamente proprio la mancanza non sentiamo. Paola da Roma, benvenuta. Buongiorno care ragazze. Allora, io sono stata sempre un animale da supermercato. Poi un giorno mi sono rotta un braccio. E allora, non potendo portare tutti i pesi del supermercato, ho cominciato ad andare nel negozietto sotto casa dove ci sono moglie e marito. È proprio una donna a cuore e denari, non c'è niente da fare. Combina gli aspetti economici con le problematiche di salute, Paola. Eccoci qua. E siamo qua per lei. Io allora ho cominciato a comprare due rosette anziché la confezione di pane, un etto di prosciutto, un pezzetto di parmigiano, quello che mi serviva. Soprattutto non mi caricavo di 3x2 che poi scadevano, di yogurt in offerta, eccetera. Uno yogurt, il panino, un etto di prosciutto. Quando il braccio era poi sano, il portafoglio cantava. Il portafoglio cantava, Paola. Ma anche 35 euro al mese. E non ho più buttato niente. I signori sono gentili, quando sono stata male mi hanno portato la spesa a casa, non mi sono stracaricata di cose superflue, di biscotti strani, caramelle, cose, patè di fegato di balena africana. Grazie Paola, guardi, abbiamo raccolto perfettamente lo spirito della sua telefonata. Peraltro questa legge punta a rendere più consapevole anche il cittadino. Lucchini, su questo punto dobbiamo chiarire qualcosa. Esatto. Questo punto è un punto importante, perché il principio, quello che ho detto prima, ad esempio, saluto Francesco, se è ancora lì, perché ci conosciamo bene, apprezzo la loro attività. Non ci lascia Francesco, è affezionatissimo. Ecco, bene. Però volevo precisare una cosa, perché non è benefici per loro? Perché questa legge è pensata per favorire il dono, quindi non la commercializzazione, anche che ha un effetto, quello di ridurre lo spreco, perché Francesco sicuramente riduce lo spreco, ma questa legge favorisce il dono. Il dono. All'inizio. No, e quindi chiaramente ha meno beneficio, però culturalmente evidentemente agirà anche sulle persone, quindi anche sui consumatori. Voglio fare solo questo esempio perché quando ho sentito adesso la signora, mi sembra la signora di Roma, giustamente dice per questo episodio ho imparato a comprare meglio, diciamo così. Siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale di Cuore Denari. In questo lunedì dell'Angelo abbiamo, per così dire, sfogliato il nostro album dei ricordi. Domani invece torniamo con una nuova puntata nel nostro consueto orario dalle 10.30 qui su Radio 24. Vi aspettiamo, ancora tanti auguri e una buona Pasquetta.